senza scappare mai più. Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio cosa faccio, dimmi se rifletterò. E vorrei imparare ad imitarti, a far del male come sai. Ma non posso, non riesco, non ho equilibri miei. Sai, sai, sai, sai che pensare ad ognuno ma nessuno pensa a noi. Perderei la mano a farmi male se lo vuoi. E poi forse potrei fingere, ma non ci crederei. Io correrei a salvarti, a dirti che così non può durare. Correrei a parlarti, a consolarti, niente più dolore. Correrei a fermare il tempo insieme a lui, le sue torture. Correrei da te, ti stringerei senza scappare. Scappare mai più, senza scappare mai. Il buono dell'estate scalda in pace chi già sai. Fa che la mia rabbia invece si raffreddi casomai. Sai, sai, sai, sai che pensare ad un male che non ci ferisca mai. Pensare a una scusa che non ti deluda mai. Preferisco i fatti alle parole, anche se poi preferisco me a chi fa finta come noi. Io correrei a salvarti, a dirti che così non può durare. Correrei a parlarti, a consolarti, niente più dolore. Correrei a fermare il tempo insieme a lui, le sue torture. Correrei da te, ti stringerei senza scappare. Senza scappare mai più, senza scappare mai dal punto in cui correvo e stavi fermo tu. Ti persi ma non scapperò mai più. Io non scapperò mai. Correre a salvare.